Mi dispiace dirvelo in radio così in modo brutale, ma Capitan Planet non esiste. E visto che ci troviamo, non esiste neanche l'astronave Axiom, quella che nel film Wall-E porta in salvo gli umani nello spazio mentre il pianeta è invaso dai rifiuti. Oggi a Sentieri parliamo di clima e migrazioni. Io sono Giulio di Radio Antenna Migrante, buon ascolto. Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Che la temperatura media del pianeta stia crescendo a causa dei comportamenti umani e che il riscaldamento provochi effetti già dannosi e potenzialmente rovinosi è acclarato sul piano scientifico da 25 anni. E infatti la 25esima conferenza sul cambiamento climatico organizzata dall'ONU a Madrid, la cosiddetta COP25, è stata praticamente un fallimento. Ne parliamo con Lorenzo Baselice di Friday for Future Campania, che ha risposto ad alcuni nostri quesiti. Ciao Lorenzo. Ciao. Tu adesso dove ti trovi? Io adesso sono fuori l'università, a Napoli. Il punto della situazione rispetto a COP25? Sì, diciamo che nonostante le grandi aspettative, la COP25 è stato un totale fallimento. Diciamo che si arrivava con grandi aspettative, soprattutto dopo gli accordi di Parigi, ma anche dopo un anno di climate strikes. E non a caso lo slogan della COP25 era Time for Action. Azione che però a quanto pare non è arrivata da nessuna parte, perché si è creata una sorta di blocco nei lavori della conferenza delle parti, dato dal fatto che mentre gli stati più piccoli, quindi meno interessati ad emettere per crescere economicamente, e anche gli stati insulari, penso a tanti piccoli stati del Pacifico, sono arrivati alle conferenze con grandi richieste e grandi aspettative, dall'altro lato i grandi inquinatori hanno posto dei veti incrociati che hanno bloccato tutta la situazione. E la novità è che, oltre al ruolo storicamente negli ultimi anni negazionista degli Stati Uniti rispetto al climate change, si sono andati ad aggiungere in questo diciamo blocco del non fare anche Australia, India, Giappone, che comunque sono stati grandi e che hanno una grossa quota delle emissioni globali. Quindi sostanzialmente il loro agire per veti incrociati ha bloccato tutto e la conferenza si è divisa in due gruppi: da una parte i grandi stati, i grandi inquinatori, da una parte i piccoli stati che portavano forti richieste non ascoltate. E in questo quadro l'Unione Europea ha portato il progetto più avanzato, potremmo dire, il Green New Deal. Però è evidente che senza i grandi paesi non si va da nessuna parte, anche perché sono quelli che inquinano di più e emettono più CO2. Infatti diciamo che il grande blocco nella conferenza delle parti si è creato soprattutto intorno alla discussione dell'articolo 6, questo famoso articolo 6 che appunto stabilisce le quote di emissioni possibili per ogni paese. È il nodo focale su cui si è bloccata la discussione nella conferenza delle parti e chiaramente i grandi inquinatori hanno evitato di ridiscutere questo articolo perché vogliono restare sulle quote attuali e non vogliono ridurre la quota di emissioni concesse. E hanno detto appunto di aver fatto il massimo possibile perché più di così darebbero al mondo un segnale negativo rispetto alle loro ambizioni sulla crescita. Quindi ancora una volta, nonostante sia una conferenza chiamata sul clima, poi i grandi paesi mettono davanti tutto il discorso sulla crescita economica rispetto alla salvaguardia del clima e dell'ambiente, e secondo noi con questi presupposti è molto, molto difficile andare avanti, diciamo. I conflitti sono certo la più nota origine di migrazioni forzate della nostra specie, ma non è l'unica. Il non poter restare più in un posto è sempre accaduto, anche in presenza di eventi, atti, fatti, connessi direttamente alla propria vita. Accanto alle guerre e alle persecuzioni politiche, storicamente l'altra grande forza di costrizione è stato il contesto climatico-ambientale che da qualche decennio chiamiamo sviluppo insostenibile. Una piccolissima pausa pubblicitaria dal nostro sponsor By and Large prima di ascoltare Antonella Terracciano di Legambiente. I migranti climatici, ovvero quelle persone che devono abbandonare le proprie terre per ragioni ambientali, sono una realtà. L'ultimo dato che abbiamo è quello della Banca Mondiale, che ci dice che entro il 2050 ci saranno almeno 143 milioni di persone che si sposteranno per queste ragioni. Quindi è un fenomeno di cui tenere conto. Ovviamente quelli che si spostano, come dicevamo prima, sono le persone che abitano in paesi che hanno un'economia meno strutturata, quindi paesi per cui un cambiamento climatico forte può portare a delle complicazioni importanti dal punto di vista proprio delle risorse primarie. La strada era quella di evitare un innalzamento del surriscaldamento del pianeta, perché questo ha ripercussioni, come dicevamo, anche sul flusso migratorio. Anche l'innalzamento dello scioglimento dei ghiacciai con l'innalzamento dei livelli del mare può portare a una salinizzazione del suolo, che ovviamente ha un impatto maggiore sulle popolazioni che vivono di agricoltura. Gli scenari sono preoccupanti se non si cambia rotta dal punto di vista politico, quindi se non si creano delle opportunità per questi paesi, e se non si cerca di fermare non il flusso migratorio, ma le condizioni che si impongono a queste persone che devono abbandonare la propria terra. Non è una scelta libera quella di migrare in seguito a un evento catastrofico. Anche le alluvioni che stanno attualmente colpendo l'Africa sono probabilmente una tematica poco raccontata, poco nota, di cui però bisogna farci carico e quindi bisogna affrontarla. Sì, tante volte infatti si appunto di persone che non scappano da nessuna guerra, è una frase che spesso si sente dire. Certo, però le condizioni di vita che non permettono la sopravvivenza in fondo non hanno una gravità minore rispetto a un conflitto. Già quando si ebbe la pubblicazione dell'IPCC, ormai quasi 20 anni fa, che è il più famoso rapporto, poi più volte modificato, sul rischio climatico, appunto c'era una parte molto, molto importante sulle migrazioni, perché quello delle migrazioni forzate dalla situazione ambientale e climatica è considerato uno dei rischi più grandi del cambiamento climatico che stiamo vivendo, perché si parla di 200 milioni di persone che, se appunto non si manterrà la crescita della temperatura globale sotto l'1,5 gradi entro il 2050, 200 milioni di persone saranno costrette a lasciare i propri territori per condizioni di invivibilità climatica. Visto che chiaramente stiamo andando in una direzione ben contraria a quella di salvarci da questo famoso più 1,5 gradi, è evidente che la situazione diventa ogni giorno più drastica, perché parliamo di 200 milioni di persone che sono praticamente una persona su 45 di quelle che vivono nel mondo, e sono di più di quelle che attualmente hanno emigrato lontano da casa in tutto il mondo. Quindi è chiaro che è una situazione abbastanza emblematica, ed è una situazione che tra l'altro è già cominciata. Non c'è bisogno di aspettare il picco che si avrà entro il 2050 per rendersene conto, perché, come dicevi anche tu, in una serie di paesi dell'Africa subsahariana questa cosa già succede, e ci sono tanti popoli che stanno migrando verso nord o verso sud, dove ci sono stati più stabili, sia politicamente ma anche climaticamente, sta succedendo in Sud America. Ovviamente sono territori sicuramente con condizioni climatiche particolari, e soprattutto territori che sono stati maggiormente devastati dall'azione dell'uomo, piuttosto che l'Europa, piuttosto che il Nord America. Penso per esempio alle miniere di materie prime che ci sono in Niger, in Nigeria, nel Sud Sudan, dove sempre più persone sono costrette a scappare. L'Africa è stato il continente che noi abbiamo depredato in maniera più costante, sarebbe il minimo cercare di dare ora supporto alle nazioni che sono, ai continenti che sono meno forti, che sono meno sviluppati, anche probabilmente a causa nostra, anche probabilmente per una colpa condivisa. Da questo punto di vista, tu facevi riferimento prima alle altre nazioni, alle nazioni più ricche, e il problema di un sovranismo ambientale che sta prendendo piede e che ci riporta al discorso di prima: ognuno vuole gestire le risorse e le ricchezze del proprio paese senza tenere alcun conto dell'impatto a scala più ampia che questo ha sulla vita di altre persone. Oppure penso all'esempio che leggevo ultimamente della Nuova Zelanda, che si è trovata ad accogliere sempre più migranti costretti a scappare dalle microisole del Pacifico che stanno subendo l'innalzamento delle maree. E il problema, diciamo, rispetto a questa questione dell'emigrazione climatica è che non esiste ancora nessuna figura giuridica, né nel diritto internazionale né nel diritto degli stati, che riconosce questa figura. E tra l'altro nel dibattito nel mondo del diritto, diciamo che questo è anche un problema, perché non si capisce ancora come si potrebbero definire queste persone per trovargli una collocazione poi nei paesi di arrivo e un diritto di asilo. Secondo me, secondo noi, al più presto il diritto internazionale dovrebbe dare un'indicazione ai diritti degli stati nazionali per riconoscere queste figure, perché appunto è un fenomeno già in atto, è un fenomeno che entro il 2050, se parliamo dei prossimi 30 anni, raggiungerà delle cifre esorbitanti. Sarà la più grande migrazione probabilmente nella storia dell'umanità, e quindi diciamo che sarà ogni giorno più difficile fare finta di niente. È un tema molto discusso, perché ovviamente è difficile riconoscere le motivazioni climatiche alla base del flusso migratorio. A volte non lo associamo quando magari le persone scappano dal proprio paese per carestia o per assenza di risorse di mare, ma anche quello è riconducibile a dei cambiamenti climatici. Sembra che la COP25 di Madrid stia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai, abbiamo solo appena iniziato. Greta Thunberg ha commentato così su Twitter il fallimento di COP25. Abbiamo solo appena iniziato. Beh, adesso la conferenza delle parti si ritroverà a Bonn a luglio, quindi le discussioni ricontinueranno in quella sede. Ovviamente nel frattempo noi come movimento globale cercheremo di crescere sempre di più, perché se quello che è stato fatto nell'ultimo anno a partire dalle prime manifestazioni di Greta Thunberg è servito almeno a portare una grande attenzione su questo tema, come ha detto poi lei stessa alla COP di Madrid, forse è arrivato il momento di puntare sempre più in alto, di crescere sempre di più, di essere sempre più determinati perché ci ascoltino veramente. Per esempio, in quest'ottica posso già dirti che ci sarà la terza assemblea nazionale del movimento di Fridays for Future Italia a febbraio, non sappiamo ancora la sede, mentre invece a Torino ad agosto ci sarà il meeting globale di Fridays for Future, e non solo, anche di Extinction Rebellion e tutti questi nascenti movimenti ambientalisti. Sarà inizio agosto a Torino. Quelli che stiamo vivendo sono tempi duri, tempi difficili. Non c'è lavoro, non c'è denaro. pertanto bisogna arrangiarsi, riuscire a sopravvivere. Noi di Cinico TV stiamo cercando dei testimoni che possano insegnarci a sopravvivere nelle circostanze più difficili. Per questo abbiamo trovato il signor... Pietro Giordano. Pietro? Pietro Giordano. Gio? Giordano. Giordano. Giordano? Giordano! Prego. Come ti trovi in un canile? Sono venuto qua. Eh? Sono venuto qua. Qua? Per rubare. Ruba cani? Rubare il pane che le signore di buona famiglia danno ai cani. Ah, qui vengono le signore di buon cuore. Sì, e lo danno ai cani. Io gliel'ho rubato. Ai cani? Sì. Ma che pane è? Pane mollito. Ma che pane è? Pane duro. Duro? Sì. Lei lo sgretola? Sì. Lo metto in bocca e lo faccio, ne faccio della pastetta. De? Pastetta, pastetta. Pastetta? Pastetta. Pa? Pastetta. Pastetta? Sì. C'è una poltiglia. Esatto. Lo riduce? Sì. E da quanto tempo rumina? Da circa 2 ore. Quanto? Da circa 2 ore. E come fa? Lo metti in bocca e lo rivolto. Per ottenere? Una specie di pastetta, ecco. Ci vuol far vedere? Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.